l'autrice del libro La signorina dell'igiene, genere biopolitica nella costruzione dell'infermiera moderna, e già questo titolo ci terrorizza, ma lo affronteremo a testa alta. Ciao, benvenuta. Siamo molto contente che tu sia qui a presentare questo libro, uscito lo scorso anno nel 2015, quindi abbastanza recente, e ci racconta un po' e analizza la figura dell'infermiera moderna, come si è andata a costituire, quali sono stati gli attori e le attrici sociali che hanno attraversato il secolo durante il quale si è costituita questa figura dell'infermiera, e tutto quello che ne è convenuto, tutte anche, insomma, tu fai un sacco di analisi rispetto a questa figura. Innanzitutto vorremmo chiederti un po' come è venuto in mente, come è nato questo interesse per questo argomento. Allora, la mia idea iniziale era semplice, cioè era partendo da un interrogativo di fondo, che era in che modo si è costruita storicamente, culturalmente, socialmente l'idea che la cura dei corpi sia una cosa, diciamo, tipicamente femminile, e per la quale le donne sono per natura, tra virgolette, predisposte. Quindi questo era, diciamo, l'interrogativo di fondo, nel tentativo appunto di smontare, ovviamente denaturalizzare, quest'idea che è un po' scontata nella società. E mi è sembrato che affrontare una professione che è a livello di immaginario simbolico eccetera molto connotata da un punto di vista di genere come quella dell'infermiera fosse un'idea, cioè un punto di inizio per rispondere a questa domanda. E nel momento in cui ho affrontato, poi ho iniziato a leggere eccetera, mi sono resa conto che affrontare questa questione attraverso la storia dell'assistenza infermieristica fosse particolarmente, cioè potenzialmente particolarmente interessante, proprio perché nel primo 20-30ennio del Novecento si assiste a una trasformazione abbastanza radicale, cioè da un momento in cui alla fine del Novecento, diciamo, l'idea che una donna potesse toccare, maneggiare, essere in intimità con un corpo maschile, che poi era un po' il cuore, diciamo, della professione infermieristica, era ritenuto scandaloso. E infatti poi di fatto negli ospedali gli uomini assistevano gli uomini. Si è passato alla fine degli anni 20 addirittura al varo di una legge che stabiliva che soltanto le donne potessero svolgere questa professione, all'interno di un quadro in cui, diciamo, la figura dell'infermiera era proprio la quintessenza della femminilità oblativa eccetera. Quindi c'è nel giro di un ventennio c'è un ribaltamento completo. Quindi il tentativo era vedere che succede, che si dicono in questo ventennio, e chi se lo dice, perché questa cosa tutto sommato stramba accada. Buonasera a tutte, io sono Laura, entro nella discussione come una lettrice del lavoro di Olivia, e che spero possa fare delle domande in modo che Olivia possa raccontarci in maniera più approfondita il suo lavoro. Ecco, io invece ritornerei al titolo che appunto dicevamo ci spaventa ma affronteremo a testa alta, e chiederei ad Olivia intanto di dirci chi è l'infermiera moderna di cui si parla ed è appunto cristallizzata nel titolo del suo lavoro, e poi di spiegarci a grandi linee qual è il progetto biopolitico che sta al centro del suo lavoro e in cui l'infermiera cosiddetta moderna, l'infermiera moderna gioca un ruolo chiave, perché questo ci tengo a dirlo prima di lasciare la parola a Olivia, il suo è un lavoro che intreccia grandi questioni della nostra storia dell'ultimo secolo, in cui appunto apparentemente si parla di infermiere avere, ma questo è solo un pretesto poi per parlare di intrecci e dinamiche di potere ben più ampie e ben più allargate. Allora, dunque, intanto, vabbè, l'infermiera moderna, che è un po' la protagonista di questa cosa, che è virgolettato perché nel titolo, perché l'infermiera moderna è una, sì, è virgolettato. Non ci crede. Perché appunto è una, come dire, una figura immaginaria in qualche modo, cioè quello che ho cercato di scrivere non è la storia della professione infermieristica, nel senso di quello che le infermiere hanno fatto nel primo trentennio del Novecento, chi erano, eccetera eccetera, ma è una storia di come viene costruita questa figura immaginaria, che nel mio nella mia idea, diciamo, raccoglie tutta una serie di discorsi e di input che vengono dati. È anche interessante forse sapere anche come le donne poi hanno reagito a queste sollecitazioni. Esatto, tra l'altro le donne non hanno reagito un granché bene poi a questa figura così che gli viene proposta, perché di fatto, nonostante appunto alla fine degli anni 20 c'è una legge che viene finalmente varata in pompa magna per l'istituzione delle scuole convitto per infermiere, che dice che le infermiere devono essere donne di civile condizione, come si diceva, quindi diciamo di classe media, che devono fare queste scuole convitto per diventare poi delle infermiere professioniste, diplomate, super formate, eccetera eccetera. Poi queste scuole convitto di fatto in realtà non raccolgono tanto consenso, perché non riescono a sfornare il numero di diplomate che servirebbero per coprire tutti i posti da infermiere. Infatti poi di fatto gli uomini continuano, e anche questo sarebbe interessante da approfondire, continuano a lavorare negli ospedali, vengono declassati, diciamo, a portantini. Sì, legalmente vengono create proprio due figure distinte che appartengono a due sindacati distinti. Durante il fascismo le infermiere sono nel sindacato, diciamo, a cui appartengono generalmente le figure d'ufficio, eccetera eccetera, mentre invece gli infermieri appartengono a un sindacato che raccoglie figure operaie, eccetera eccetera, quindi proprio vengono distinti. E diciamo, però, questa figura ideale ha in realtà dei forti effetti, diciamo, simbolici, discorsivi, eccetera, perché poi di fatto appunto la costruzione di questa associazione tra assistenza, cura dei corpi e femminilità poi ha un effetto performativo comunque forte, tanto che poi di fatto si è femminilizzata anche quantitativamente la professione, e comunque l'infermiera poi diventa a un certo punto un po' una, soprattutto durante il fascismo, in cui, diciamo, ci sono delle figure chiave di donne che in qualche modo rappresentano dei modelli, cioè quello dell'infermiera, nonostante per tanti versi sia una figura contraddittoria rispetto ai messaggi del fascismo, perché comunque per esempio tendenzialmente le infermiere non si dovevano sposare, poi erano chiaramente, quella di infermiera era una professione, mentre durante il fascismo, diciamo, il lavoro femminile, l'impiego femminile tendenzialmente era scoraggiato, per cui è interessante che comunque una figura contraddittoria anche negli stessi termini degli attori sociali e dei poteri che la supportano. E poi è una figura interessante, cioè è una figura, oltre ad essere interessante, anche perché rappresenta, secondo me, quello che ho tentato di vedere era in che modo questa figura rappresenta una chiave di volta di una serie di progetti politici di attori sociali differenti. Cioè, da una parte quello del movimento femminile emancipazionista di inizio Novecento, che vede nell'infermiera moderna una sorta di professionalizzazione di un'attitudine che il movimento aveva, che era quella, diciamo, della rigenerazione della società, del corpo sociale, che le infermiere incarnavano in qualche modo, essendo coloro che dovevano curare i corpi individuali per, diciamo, il benessere della società, del corpo sociale nel suo complesso. E tra l'altro erano dovevano essere portatrici di quella disciplina che è l'igiene, che infatti il titolo poi del libro è La signorina dell'igiene, che tra l'altro non è una frase che ho inventato io, cioè non è un, come dire, un appellativo che ho inventato io, ma viene proprio da un divertente report di una infermiera, cioè di una direttrice di una scuola per assistenti sanitari e visitatrici, che racconta che i bambini a cui di questa, diciamo, dopo scuola, a cui insegnava proprio le regole dell'igiene, cioè come ci si lava eccetera eccetera, la chiamavano la signorina dell'igiene, e quindi doveva essere portatrice di questa disciplina, che poi è una, diciamo, era se ben guardiamo era, diciamo, un insieme di norme, di regole eccetera, che hanno a che fare principalmente, avevano e hanno, perché non è che a che fare prevalentemente principalmente su come proprio si amministra e governa il corpo, come il corpo si deve. Infatti arriviamo al cuore forse del lavoro di Olivia, e ritorneremo, anzi entreremo adesso più approfonditamente su questa questione della rigenerazione sociale, e quindi appunto del progetto biopolitico di cui parlavamo prima, che è al centro del lavoro di Olivia. E, per facilitare il racconto del tuo lavoro, credo sia utile mettere a fuoco il fatto che tu nel tuo libro sviluppi un'analisi che si muove dentro le mura dell'ospedale, e in questo senso incroci pure il discorso sulle infermiere e sulle infermiere moderne con un processo più ampio, che è di ammodernamento proprio dell'ospedale, di nascita dell'ospedale moderno tout court, per cui passiamo da un'idea ottocentesca o anche di età moderna dell'ospedale come luogo di ricovero a un'idea tutta contemporanea, ma non solo un'idea, una pratica di ospedale che è invece ispirato a dei principi di organizzazione ferrea e di gestione, di amministrazione dei corpi e della salute, che cambia completamente rispetto al periodo precedente. E però un'altra parte del tuo lavoro invece ha seguito queste infermiere moderne, come anticipavi adesso, fuori dalle mura dell'ospedale, e devo dire che a me questa è sembrata una delle parti più innovative, più utili del tuo lavoro, perché come accennavi adesso introduci questa figura dell'infermiera visitatrice che poi appunto se ti va ti chiederei di raccontare, di spiegare la tipicità di questa figura, quali sono i suoi compiti e i compiti nuovi che assolve, che sono tutte dentro un progetto di gestione della società e soprattutto dei margini sociali che prima era stato positivista e poi viene ripreso completamente dal fascismo. Allora sì, sicuramente la seconda parola del sottotitolo è biopolitica, perché diciamo leggendo questo processo per cui a un certo punto si costruisce letteralmente attraverso i discorsi di vari attori sociali l'idea che l'assistenza sia una prerogativa tipicamente femminile, è inevitabile impattare sul fatto che chiaramente la costruzione della professione infermieristica, come d'altra parte di tutte le professioni sanitarie che in quel periodo si costruiscono, diciamo, in una, come dire, in una ragnatela di relazioni, ha a che fare con il progetto di gestione delle come dire, risorse vitali della popolazione, che Foucault definirebbe biopolitica, che è in corso in quegli anni. Chiaramente la biopolitica non è diciamo la biopolitica intesa come appunto quel progetto di governo della popolazione attraverso la gestione razionale, l'ottimizzazione delle funzioni vitali della popolazione, quindi della natalità, della mortalità, della morbidità della popolazione, non inizia certamente all'inizio del Novecento, è una cosa che diciamo inizia a prendere corpo dal XIX secolo, ma che sicuramente in quegli anni e soprattutto negli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale ha un'accelerazione e delle caratteristiche specifiche, quindi non è casuale che questo processo avvenga in quel periodo lì. Per quanto riguarda specificatamente l'Italia, tu prima per esempio citavi la questione dell'ospedale, diciamo i medici ospedalieri sono uno di quegli attori che costruiscono, che diciamo si spingono la figura dell'infermiera moderna, perché fa parte di un progetto più complessivo di conquista dell'ospedale in un certo senso, che in quel periodo i medici che stavano costruendo la propria proprio regno, i confini della propria professione, il posto della propria professione dentro l'architettura dello Stato, quindi la conquista dell'ospedale e la sua medicalizzazione, perché a cavallo del Novecento l'ospedale era ancora un'istituzione ibrida da un punto di vista delle funzioni, faceva parte di quell'universo della carità di cui facevano parte istituzioni varie che non erano strettamente sanitarie. I medici, il mondo delle professioni sanitarie aveva un ruolo dentro l'ospedale, chiaramente, perché era anche uno spazio dove andavano i malati, quindi si tentava di, però avevano un ruolo tutto sommato marginale in quel periodo. I medici iniziano a prendere possesso in qualche modo molto lentamente, perché poi la Chiesa aveva un ruolo fondamentale nel controllo degli ospedali e non aveva intenzione di mollare il controllo degli ospedali, appunto. Però iniziano a prendere possesso, e chiaramente di questo percorso di medicalizzazione è parte fondamentale la costruzione di un discorso sull'ospedale moderno, quindi l'ospedale moderno che deve diventare una macchina per guarire, in cui non si va più per morire ma si va per uscire guariti, e quindi in cui il medico deve avere un ruolo fondamentale. Ecco, le infermiere in questo progetto, anzi l'infermiera moderna, che appunto rappresenta quella modernità che in qualche modo i medici investono nel loro progetto, è una chiave di volta e rappresenta in qualche modo il braccio, cioè quello che dovrebbe nel loro progetto permettere a questo ospedale macchina per guarire di funzionare. Contemporaneamente l'infermiera moderna è anche la chiave di volta del progetto fuori dall'ospedale di costruzione di una società, appunto, che sia in grado di ottimizzare le funzioni vitali e quindi quindi principalmente le capacità produttive e riproduttive degli individui, dentro un processo di costruzione della nazione che appunto ha come obiettivo quello appunto di accrescere la potenza produttiva della nazione in qualche modo, e le infermiere, che apparentemente non c'entrano nulla con tutto questo, in realtà c'entrano molto, perché nei discorsi appunto dei fautori della medicina sociale, dell'igiene sociale, appunto di questo progetto di ottimizzazione della popolazione, dal momento che di questo progetto la diffusione dell'igiene intesa come strumento appunto di governo delle condotte individuali, teso a migliorare nel suo complesso la prestazione dell'organismo, della macchina uomo, come la chiamano alcuni igienisti, la diffusione dell'igiene deve essere fatta da qualcuno che sia in grado di farlo e che abbia la capacità di farsi ascoltare fondamentalmente, e in questo quadro le donne, cioè le infermiere in quanto donne, rientrano perché si immagina che possano rappresentare una testa d'ariete rispetto a una popolazione, a un proletariato che si immagina restio ad ascoltare l'autorità, e che invece ascoltare più pronto, si immagina più pronto ad ascoltare una figura più rassicurante, più amichevole in qualche modo, e appunto portatrice di una, di un elemento di familiarità che è una che è nell'immaginario collettivo, è una figura femminile. Quindi in questo contesto, prima tu allora parlavi di come il genere e la classe si intrecciano, nel senso che poi in realtà portatrici di igiene, ma non sono però le proletarie in questo caso. Tu prima parlavi invece di una classe sociale medio-alta. Esatto, sì, sicuramente in tutto questo, cioè diciamo la figura dell'infermiera moderna ha deve avere due caratteristiche fondamentali, quella del genere e quella della classe. Ovviamente nei fatti non è tanto così, né in termini di genere né in termini di classe, però il progetto che poi si cerca di costruire è quello appunto di reclutare delle donne che siano portatrici non tanto delle condizioni socio-economiche della classe media, quanto proprio di un ethos di classe, e quindi di una femminilità borghese che si immagina che sia proprio il, come dire, la chiave di volta di tutte queste doti che ci si aspetta che abbia l'infermiera moderna, quindi la capacità di persuadere, la capacità di civilizzare, e di farsi ascoltare ma in un modo non autoritario, eccetera eccetera, e di essere chiaramente pulita e ordinata come ci si aspetta che sia un'infermiera e ogni donna che si rispetti. Però ovviamente ironicamente, no, volevo aggiungere intanto una cosa, che così come ce la racconta Olivia, questa infermiera moderna, soprattutto quella proiettata fuori dallo spazio ospedaliero e che penetra nelle periferie, nei bassi fondi, negli chiamiamoli proprio anfratti della società borghese e italiana in via di edificazione, a un'età possiamo dire quasi appena avvenuta, è sicuramente l'anello mancante, era quello che in qualche modo mancava a una classe dirigente, acculturata, intellettuale e tutto quello che si vuole, che si era proposta di civilizzare queste masse popolari, queste masse proletarie, e poi però aveva fallito il progetto di penetrazione nelle periferie, intendo periferie sociali, non solo urbane. E vorrei aggiungere un altro elemento per valorizzare il lavoro che ha fatto Olivia, vale a dire sottolineare come nel suo libro lei assuma e proponga una dimensione transnazionale. Questo non soltanto nella scelta e nell'uso che lei fa delle fonti, vale a dire dei documenti e dei punti di raccolta documentaria attraverso cui costruire il suo racconto, e quindi mettendo a fuoco sicuramente la Croce Rossa come una delle più grandi agenzie e protagoniste di questo processo, ma anche la Rockefeller Foundation, e in questo senso diciamo il ruolo che hanno avuto le agenzie internazionali e in special modo l'interesse che per esempio il governo degli Stati Uniti ha avuto all'interno di questo progetto. Mi sembra un elemento molto importante, non solo che Olivia abbia affrontato, ma anche che va secondo me riportato e raccontato questa sera, perché appunto in questo processo di penetrazione nelle periferie della società italiana di inizio Novecento ci sono anche quelli che poi saranno i migranti, e allora l'interesse degli Stati Uniti nel creare progetti e programmi di igiene sociale in cui saranno coinvolte anche le infermiere, quindi di formarle, quindi di finanziare dei progetti e dei programmi di formazione delle scuole convitto, dei programmi di formazione per queste infermiere, è ovviamente un interesse ben preciso, cioè che è quello di creare poi una classe di futuri migranti che siano il più possibile sani e civilizzati, e questo mi sembra molto illuminante rispetto a come dire, la dimensione transnazionale di fenomeni che appunto oggi si ripropongono con altre declinazioni, ma che sempre hanno al centro corpi che attraversano confini, migranti, sanità, questione delle malattie e quant'altro. No, sicuramente una, cioè, diciamo, la dimensione transnazionale di questo tema è proprio, ci ho sbattuto il naso contro, nel senso che seguendo il filo appunto andando a capire chi fossero queste assistenti sanitarie visitatrici di cui parlavano tutti negli anni 20, che sono scomparse dal nostro vocabolario, praticamente erano delle infermiere o comunque delle figure, diciamo, sociosanitarie che dovevano entrare, penetrare, proprio questo verbo gli piaceva tantissimo, nelle case del proletariato a portare il Vangelo dell'igiene. Il Vangelo dell'igiene non è un'espressione mia, cioè lo usavano veramente loro, e dovevano penetrare appunto nelle case in questi oscuri tuguri del proletariato a insegnare alle persone come lavarsi, lavare i bambini, pulire la casa, alle donne chiaramente prevalentemente, ma anche agli uomini attraverso il lavoro di fabbrica, i bambini, eccetera eccetera, e dovevano così produrre una società produttiva, che ordinata, che producesse delle famiglie appunto modello, eccetera. E queste figure qua, di cui appunto tutti parlavano negli anni 20, che erano proprio la punta di diamante di questo progetto dell'infermiera moderna, sono fondamentalmente state importate, in qualche modo, almeno l'idea di questa figura è stata fondamentalmente importata dalla Croce Rossa americana, che durante la Prima Guerra Mondiale arriva in Italia dopo Caporetto, prevalentemente per fare un lavoro di assistenza ai civili e in parte ai militari, e fa anche un lavoro, come sta facendo nel resto d'Europa, un lavoro, diciamo, che si pensa come un lavoro duraturo, diciamo, di costruzione di quelli che chiamano degli standard internazionali di welfare. Quindi l'idea è appunto insegnare fondamentalmente come si costruiscono delle strutture di welfare e di public health che funzionino e secondo standard internazionali, cioè statunitensi. Questo è un lavoro che appunto la Croce Rossa americana, soprattutto in Europa, in scala decisamente più grande, sta facendo anche la Rockefeller Foundation, che è un'altra organizzazione assistenziale di carità, charity, vabbè, insomma, che opera non soltanto in Europa, filantropica, grazie, che opera non soltanto in Europa ma anche in moltissimi contesti coloniali, e questo è interessante perché ci sono, cioè, per esempio opera nelle Filippine, ma opera anche in altri contesti coloniali britannici. Le Filippine chiaramente stavano uscendo da un colonialismo statunitense, e peraltro è interessante che ci sono delle figure proprio alcune donne che viaggiano tra i vari contesti. Per esempio c'è questa Alice Fitzgerald, che è prima responsabile della Nursing Bureau della Croce Rossa americana, poi va nelle Filippine, quindi che si muovono in vari contesti, e fondamentalmente quello che fanno è insegnare degli standard di assistenza infermieristica, e la loro grossa preoccupazione è quella di diffondere questa figura dell'assistente sanitaria visitatrice, perché proprio perché è ritenuta una figura adatta a portare avanti questo progetto di costruzione di un corpo sociale sano, produttivo, riproduttivo, perché è in grado di infilarsi in quegli anfratti di cui parlava prima Laura, che diciamo a quel punto saranno accorti che fare pubblicità dell'igiene, imporre l'igiene normativamente non era possibile, perché l'igiene è una cosa che fa parte dell'intimità della vita, e quindi la gente semplicemente se ne frega se gliela imponi, mentre invece se entri là e gli dici ma guarda che si fa così, modo amichevole, eccetera eccetera, la gente capisce meglio e si fida di più, e quindi le donne in questo senso. E chiaramente in tutto questo progetto l'Italia, il rapporto tra Italia e Stati Uniti, e questo è proprio, la Croce Rossa americana lo dice esplicitamente, per esempio nel report del lavoro di questa Tuberculosis Commission, che è quella che poi che è una commissione speciale sulla tubercolosi che sta in Italia tra il 18 e il 19 per instaurare proprio dei servizi specifici, cioè per insegnare fondamentalmente agli italiani come si fa a gestire la tubercolosi attraverso per esempio i dispensari, attraverso tutta una serie di presidi sanitari che operano nel territorio e nel sociale, e anche insegnare appunto a usare queste infermiere. Quindi per esempio le prime scuole sono implementate dalla Croce Rossa Americana e anche pagate dalla Croce Rossa Americana, e loro dicono esplicitamente che l'Italia chiaramente ha un legame particolare negli Stati Uniti perché è un diciamo punto d'origine di un fortissimo flusso di immigrazione, che in quel momento, peraltro dopo poco, saranno varate delle leggi che bloccano questo flusso migratorio. Però a quello stadio, diciamo, l'idea, e non è una mia lettura, diciamo, lo dicono esplicitamente, l'idea è, visto che c'è questo flusso migratorio che ci serve per costruire la nazione, eccetera, eccetera, però è meglio se ci arrivano degli immigrati che sono già civili, piuttosto che poi li dobbiamo civilizzare noi, fondamentalmente, negli Stati Uniti. E quindi, infatti, non a caso le... Per esempio la responsabile dell'ufficio, cioè dell'aspetto della diffusione dell'assistente sanitaria visitatrice, è una a sua volta un'assistente sanitaria visitatrice che ha lavorato in Rhode Island con gli immigrati italiani. Quindi tra l'altro nel progetto c'è anche quello di raccogliere comunque informazioni sul sistema di welfare italiano, che poi aiuteranno i social worker americani a appunto interagire con gli immigrati italiani negli Stati Uniti. Quindi c'è un nesso molto esplicito fatto direttamente da, anche perché loro fanno questo discorso anche perché devono convincere gli americani a cacciare i soldi per la Croce Rossa. Everything you want, my heart, my love to you, baby. about you. For it's too easy to say, honey, I love you. I will try to describe what I mean, how it feels like. For that I use words, melodies. E dunque rieccoci con Olivia Fiorilli per parlare del suo libro La signorina dell'igiene, genere e biopolitica nella costruzione dell'infermiera moderna. E anche stimolate da una telefonata giunta in redazione di un'ascoltatrice, vorremmo riprendere il discorso con Olivia a partire da una migliore messa a fuoco di che cosa sia poi l'igiene, cioè quando parliamo dell'intervento che tanto le infermiere visitatrici quanto quelle diciamo impiegate dentro le mura dell'ospedale propongono e quindi questa istruzione verso alcune nozioni di igiene, ma soprattutto quando parliamo di igiene sociale a cosa ci riferiamo, anche per poter come dire distinguere tra una valorizzazione di questo genere di interventi e invece un saperne anche individuare i limiti o quantomeno gli interessi da cui questo genere di interventi sono mossi. No, sicuramente, vabbè, diciamo le sollecitazioni che poneva l'ascoltatrice che ci aveva chiamato, così purtroppo non le possiamo condividere con tutti, però provo a rispondere un po' alle giustissime questioni che poneva. Sicuramente quando io diciamo utilizzo un tentativo di lettura critica della costruzione appunto di istituzioni e pratiche sanitarie tese alla, per esempio, alla diffusione delle norme igieniche, eccetera, eccetera, non intendo chiaramente dire che sono cose sbagliate in sé. Il punto è provare a leggere le politiche del corpo, perché di fatto di questo si tratta, cioè di politiche, no, di governo dei corpi dentro il quadro della razionalità in cui sono costruite. Quindi è chiaro che l'igiene, la diffusione dell'igiene, la diffusione, cioè il miglioramento tecnico della formazione delle infermiere, del personale sanitario ha senza dubbio allungato le nostre vite, migliorato le nostre condizioni di vita. E questo non è in discussione. Il punto è dentro quale quadro e dentro quale razionalità questo è avvenuto. Non per essere sterilmente critici, ma che utilizzo se ne fa poi di questi miglioramenti? Esatto, ma per capire dentro che idea viene costruito. E questo non è solo una questione di lana caprina, nel senso che le razionalità che sono alla base della costruzione delle istituzioni, delle pratiche di welfare e di sanità, determina quelle pratiche di welfare e di sanità, determina il modo in cui, diciamo, i corpi che vengono governati dentro queste pratiche sono percepiti, governati, eccetera, eccetera. E, diciamo, l'inghippo della biopolitica è che è una modalità di funzionamento del potere che ha come esplicito obiettivo la ottimizzazione delle condizioni vitali della popolazione. Quindi non è che non è che dire che le condizioni della popolazione sono migliorate significa contraddire il fatto che la biopolitica sia una politica di controllo e di governo dei corpi, perché la biopolitica è una politica di governo e di controllo dei corpi attraverso la loro ottimizzazione, che è un'ottimizzazione controllata, nel senso in questo senso il fatto che non siano delle politiche neutre è rilevante, però questo non vuol dire che non sono politiche che hanno portato un allungamento della vita o un miglioramento. Diciamo che potremmo aggiungere altri elementi alla discussione facendo, come hai fatto tu nel libro, una distinzione tra eugenetica, adesso userò un grandissimo parolone, eugenetica repressiva, e invece un progetto di eugenetica produttiva che è quella dove più pienamente si inserisce questo intervento, che prima, appunto lo ripeto, era stato proprio della scienza positivista di fine Ottocento, e quindi dell'antropologia criminale, della sociologia di fine Ottocento, che si proponeva di governare appunto i margini della società, gli strati sociali inferiori attraverso questo genere di programmi, che poi viene ripreso ampiamente durante il fascismo. C'è una differenza fondamentale, che se la eugenetica repressiva è una selezione anche prima e alla nascita di quelli che vengono definiti disgenici, cioè i disgenetici, cioè gli elementi che in qualche modo sono considerati improduttivi o come dire dannosi per lo sviluppo di una nazione forte, perché poi non scordiamo che tutti questi movimenti culturali, scientifici, di politiche sono legati a un'idea di nazione che si costruisce a fine Ottocento e diventerà nazionalismo in diversi momenti del secolo successivo. Ecco, c'è un'idea di nazione a cui questi corpi devono o essere asserviti e funzionali, oppure è meglio che non ci siano. Rispetto a questo mi viene da aggiungere, da riprendere anche il lavoro di un'altra stagione di critiche e di studi, che magari è stata più vicina a noi, che è quella della cosiddetta antipsichiatria, quando per esempio si osò mettere in discussione quell'idea di sanità che si era andata ad affermare proprio a partire dalla fine dell'Ottocento e poi progressivamente lungo tutto il corso del Novecento, che di fatto è il mito dell'uomo sano, giovane, e giovane anche quando è vecchio, per cui un'idea di corpo che sia produttivo il più possibile e funzionale a un'idea di ad un modello economico e sociale che poi mangia alla fin fine la vita delle persone, perché le piega continuamente e perpetuamente alla necessità della produzione, e che invece, come dire, in qualche modo abbiamo fatto anche forse involontariamente un po' nostre, cioè comunque non abbiamo saputo mettere in questione del tutto, non abbiamo saputo ricevere, per cui nulla da ridire sul miglioramento delle condizioni di vita e di vita quotidiana, su come dire la redistribuzione delle risorse e la scolarizzazione e quant'altro. Qualcosa da ridire sì su l'idea di ciò che sia sano e di ciò che sia malato, e di quanto tutto questo sia funzionale esclusivamente alla produzione e a una dimensione economica, sì, questo penso che possiamo permettercelo anche culturalmente e politicamente, forse dobbiamo permettercelo. Sì. No, penso proprio di sì, anche perché soprattutto la malattia non è uguale per tutte le classi sociali, questa è una cosa fondamentale, nel senso che anche a partire dalla diagnosi, un proletario e un borghese o una persona molto ricca non hanno la stessa possibilità né di diagnosi né di guarigione, e soprattutto né di essere seguiti allo stesso modo durante la propria vita, quindi il concetto di malattia va proprio inseguito nel suo concetto politico, questo è importante. Sì, poi c'è da dire che l'idea di salute che si proponeva nella medicina sociale, nell'eugenetica, eccetera, eccetera, era un'idea che era veramente molto connotata in termini di, come dire, di progetto politico, perché era un'idea di salute che aveva a che fare fondamentalmente con l'ordine e la pulizia del corpo, è un ordine che era chiaramente tutto interno a un progetto lavorista in qualche modo, di fabbrica, sì, per cui veramente, cioè letteralmente, l'idea che gli assistenti sanitari portavano dentro le case era quella che si dovesse creare un focolare domestico pulito, ordinato, che permettesse di, che fosse veramente fabbrica di corpi puliti e ordinati, che potessero condurre una vita tale per cui i valori appunto della autopreservazione e della, diciamo, costruzione di un futuro, e quindi attraverso, diciamo, la conduzione di una vita divisa tra casa e lavoro era molto evidente. Mi viene in mente una cosa, magari sbaglio, però questo concetto di igiene decontestualizza totalmente anche la vita di proletari e proletarie su che andavano a incidere, nel senso che lo reinserivano in un contesto totalmente privato in cui, e poi escludevano totalmente il contesto sociale e politico, soprattutto il contesto in cui vivevano, di malsanità, come poteva essere la fabbrica, come possono essere le polveri crimiche, per cui io vengo da te, ti insegno il modo tuo privato di contenerti in questa igiene, poi in realtà tutto il contesto sociale, tutto ciò che ti fa ammalare, io non lo combatto. Beh, perché c'è una malattia. Ho allargato che troppo. No, è giustissimo, però se non fosse che la malattia contratta in fabbrica è una malattia personale, cioè nel senso che non è passibile di contagio. Le malattie su cui i progetti e i programmi di igiene intendono intervenire sono le malattie epidemiologiche, cioè quelle che in qualche modo possono essere diffuse. Sì. No, ma non è sbagliata l'osservazione, che è un intervento selettivo, cioè è sempre interessato, come dire, a livello complessivo. Sì, no, veramente. Il libro, insomma, questa discussione, insomma, sicuramente ha ricevuto attenzione da parte di chi ci ascolta e questo ci fa piacere, e quindi, insomma, ti poniamo altre due domande che abbiamo raccolto al telefono. La prima è: dove si trova questo libro, perché ci dicono che cercando così su internet non è così semplice, e la seconda invece è se in questo lavoro, insomma, tu hai incontrato un testo che nella traduzione italiana si intitola Le streghe siamo noi. Allora sì, diciamo, il testo Le streghe siamo noi, che è stato un testo peraltro fondamentale del movimento, cioè che è stata una traduzione chiave per il movimento per la salute delle donne negli anni 70, sicuramente l'ho incontrato, non l'ho direttamente utilizzato, però cioè, è stato un testo fondamentale. E dove si trova questo libro? Si trova, allora, intanto vorrei dire che è open access, una volta tanto una cosa buona, quindi si trova su internet ed è liberamente accessibile in PDF sul sito della casa editrice, che è la Pisa University Press. E il libro, vabbè, La signorina dell'igiene, quindi cioè, andando sul sito della Pisa University Press si può scaricare il PDF. Se poi proprio volete il cartaceo, si può sempre ordinare sul sito della Pisa University Press. Il nostro tempo, mi dispiace molto, perché invece era molto interessante questa discussione, si è esaurito, quindi noi vi ringraziamo per essere state qui. Guardatemi, vi sto salutando. Nel tempo parlate tra di voi. No, niente, volevo ringraziarvi per essere state qui. È stato Bortolotti. Niente, continuano a parlare. Va bene, allora. Grazie a voi, le trasmissioni proseguono.